Roberta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La sentenza del Tribunale di Napoli ci mette in condizione di cominciare pienamente il nostro lavoro amministrativo. È un atto che consente agli elettori di vedere rispettato il proprio diritto di scegliere da chi essere governati. Così commenta Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito della vittoria, almeno questa, diciamo, una prima vittoria, poi bisognerà vedere con la consulta, ma il suo ricorso contro la legge Severino è andato a buon fine, quindi non è più sospeso dalla presidenza della regione Campania e dice finalmente è stata riconfermata la volontà popolare. Di questo parleremo, anche perché pare che anche molti costituzionalisti non ci capiscano più niente. La legge Severino, c'è a questo punto il centrodestra che tuona, ma allora vale soltanto per Berlusconi? Quindi cerchiamo di capire se effettivamente ci sono un po' di bachi, come si dice, in questa legge, se è un po' da rivedere. Dopodiché parleremo naturalmente in parte anche della Grecia, non più di tanto, perché capisco che insomma un po' tutti ne abbiano un po' abbastanza, diciamo così, di questa trattativa senza fine. Poi tanto dobbiamo aspettare il referendum di domenica e di lì allora davvero si capirà in che direzione si va, si spera insomma. Dopodiché c'è anche la notizia di uno sciopero da parte di un sottosegretario del governo Renzi, perché ormai è bloccato da tempo il disegno di legge sulle unioni civili in Parlamento. Si diceva da più tempo che probabilmente doveva arrivare in porto entro fine estate, sembra proprio che diciamo questo esito non possa avvenire entro la fine della stagione. Poi c'è una gaffe, direi molto, molto offensiva, molto indecorosa, che riguarda Google. Lo sentirete tra poco anche dai titoli. Approfondiremo anche questo argomento per capire come funziona Google, certi sistemi, certi software, dei programmi, insomma, che riconoscono le immagini. La giornata è caratterizzata da queste notizie, con la crisi greca naturalmente, il primo ministro Varoufakis che annuncia con il sì al referendum mi dimetto, e secondo il Fondo Monetario Internazionale servono 50 miliardi per salvare Atene sino al 2018 e per l'Italia ci sarebbe un conto da 11 miliardi nel caso del no. Il caso di Luca, il Tribunale di Napoli congela la sospensione, il presidente di regione può governare la Campania, l'ira di Forza Italia che commenta la legge Severino vale solo contro Berlusconi. Whirlpool, è stato firmato l'accordo, salvi tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale. La marea nera, British Petroleum paga gli stati americani del Golfo, accordo record da 18,7 miliardi per mettere la parola fine su una delle più grandi catastrofi ambientali. La spesa sanitaria, intesa raggiunta con le regioni sui tagli alla sanità, la ministra Lorenzin commenta, accordo su 2,36 miliardi senza stravolgimenti. Auto, per effetto della crisi, in 4 milioni in Italia guidano senza assicurazione. La gaffe di Google per un problema di software, persone di colore scambiate per gorilla, scuse da Mountain View. Calcio, nei mondiali femminili in Canada la finale sarà il 5 luglio tra Stati Uniti e Giappone. Per il calcio mercato maschile il Milan trova le punte, ufficiale colombiano Bacca, Luis Adriano firma sino al 2020. Partiamo quindi dalla Grecia, continua naturalmente il braccio di ferro tra il governo Tsipras e l'Europa in vista del referendum di domenica, c'è un incalzante balletto dei sondaggi tra il sì e il no, intanto il ministro dell'economia Varoufakis annuncia che se vince il sì si dimetterà e da indiscrezioni si apprende che secondo il Fondo Monetario Internazionale Atene avrebbe bisogno di nuovi finanziamenti per 50 miliardi di euro sino al 2018 per far fronte all'insostenibilità del suo debito. Il referendum in Grecia sulle misure dell'austerity ricerca una soluzione sostenibile per il paese, non equivale a una rottura, così ha detto poco fa il primo ministro greco Tsipras. E siamo al caso De Luca. Accolto il ricorso d'urgenza presentato da Vincenzo De Luca, il Tribunale Civile di Napoli, presidente Gabriele Cioffi, ha sospeso la sospensiva della legge Severino scattata dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ora il nuovo governatore può insediarsi, tra le polemiche però, come dicevamo, delle opposizioni. La notizia che il ricorso è stato accolto raggiunge Vincenzo De Luca mentre è nella sede nazionale del PD a Largo del Nazareno. Nel partito del Premier si tira un sospiro di sollievo, dato che la giunta si può insediare, la campagna Spagna può avere un nuovo governo. Così il vice segretario Deborah Serracchiani. Non vedo tante più grandi di quante non ce ne fossero già. Io credo onestamente che sia stata fatta chiarezza. Il presidente De Luca si può insediare, fare la giunta e convocare il consiglio. Ma Forza Italia insorge. La sospensione della legge Severino vale solo per il PD, dice Renato Brunetta. Possibile che sia solo Berlusconi a pagare? E tutti gli altri, soprattutto del Partito Democratico, a essere salvati? La Severino è contra personam, contra Berlusconi, questo è inaccettabile. Il Movimento 5 Stelle invece invita a non cantare vittoria per Luigi Di Maio. Nei prossimi giorni ci saranno altre udienze a partire da quella del 17 luglio, nelle quali il risultato potrebbe essere ribaltato. Liberiamoci di De Luca il prima possibile, dice Di Maio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi cercheremo, vi dicevo, di capirci qualcosa di più tardi. Intanto spostiamoci sull'esito dei negoziati Whirlpool. È stata firmata l'ipotesi di un accordo quadro a cui seguiranno intese locali su ammortizzatori sociali, e che contiene questo accordo garanzie sul piano industriale 2015-2018. Entro ottobre inizierà la fase di consultazione sindacale e la fusione dei due gruppi si prevede di completarla entro metà 2016. Il testo dovrà contenere un quadro a cui seguiranno degli accordi applicativi in sede locale nazionale con ammortizzatori sociali che, a partire dai contratti di solidarietà, escludano che ci siano poi degli esuberi strutturali. Cancellati i 2060 licenziamenti, ci saranno solo esodi volontari, accordo storico, secondo il segretario generale della FIM CISL Marco Bentivogli, al microfono di Anna Marino. Arriva dopo tre mesi di una vertenza durissima. I contenuti più importanti sono che il piano passa da un vero e proprio bollettino di guerra che prevedeva 2060 licenziamenti e 4 stabilimenti da chiudere, a un piano che riduce e taglia drasticamente 2060 licenziamenti che saranno esclusi e punta su 513 milioni di investimenti. Questo che abbiamo sottoscritto è un accordo quadro. La gestione vera e propria degli ammortizzatori sociali verrà fatta in ogni singolo stabilimento. Dal punto di vista industriale, che cosa succederà? Una fusione? Sì, ci sarà una fusione, inizierà la fase di consultazione a ottobre e penso entro la metà del 2016 Whirlpool Indesit diventerà un unico grande gruppo. Quindi l'Italia diventerà di nuovo strategica? Sì, 650.000 pezzi, questo grazie a un insourcing, un reshoring back di produzioni che venivano svolte all'estero. Carinaro diventerà, da sito che doveva essere chiuso, diventerà un centro di tutta la componentistica di accessori e ricambi per tutta l'area Europa. Non solo, il 75% della ricerca e sviluppo del gruppo Whirlpool Area Europa sarà svolto in Italia. E ora spostiamoci sulle notizie dall'estero. Tunisia con le indagini e gli arresti dopo la strage terroristica a Sousse. L'attentatore della spiaggia di Sousse e quelli entrati in azione a marzo nel Museo del Bardo appartenevano alla stessa cellula jihadista addestrata in Libia. Ne sono convinte le autorità tunisine, che oggi hanno emesso un mandato di cattura a carico di un altro terrorista implicato nei due attacchi. Le forze di sicurezza hanno anche arrestato altre 12 persone sospettate di essere coinvolte nella strage che venerdì è costata la vita a 38 turisti stranieri. Dopo le polemiche sulla risposta, da molti giudicata inadeguata, da parte della polizia tunisina, il Ministero dell'Interno ha deciso di rimuovere i responsabili della sicurezza nei distretti di Sousse, Monastir e Kairouan. Sono oltre 1.700 poi gli agenti mobilitati per rendere più sicure le località turistiche. In giornata, intanto, le salme di 9 dei 30 turisti britannici uccisi venerdì sono state rimpatriate a bordo di un aereo della RAF, mentre proprio a Londra la polizia arrestava una ragazza di 15 anni sospettata di pianificare attentati terroristici. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di una delle più grandi catastrofi ambientali. Un risarcimento record è quello che dovrà pagare la British Petroleum per la marea nera che inquinò, vi ricordate, nel 2010 il Golfo del Messico e le sponde di alcuni stati americani. 18,7 miliardi di dollari nell'arco di 18 anni. Tanto verrà pagato da BP per aver provocato nell'aprile del 2010 il peggiore disastro ambientale della storia USA. La compagnia petrolifera britannica ha raggiunto un patteggiamento di principio con le autorità federali statunitensi e i 5 stati che si affacciano sul Golfo del Messico. Là esplose la piattaforma Deepwater Horizon, uccidendo 11 persone, riversando milioni di litri di petrolio nell'oceano e contaminando centinaia di chilometri di spiagge di Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi e Texas. BP si aspetta oneri in aumento a causa dei costi di gestione della Marea Nera, arrivati a 54 miliardi di dollari, più dei profitti registrati dal 2012. Il titolo, sia Londra sia Wall Street, comunque festeggia. Per gli investitori il patteggiamento mette fine ad anni di controversie e incertezze. Anche al Dipartimento di Giustizia si festeggia, quello con BP è il più grande patteggiamento siglato con un'azienda. Per Loretta Lynch, la donna a capo del Dipartimento americano, l'accordo è senza precedenti. Ora manca solo il via libera di un giudice. Stefania Spatti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Ora in Nigeria, dove terroristi islamici del gruppo Boko Haram hanno ucciso 97 persone raccolte in preghiera in una o forse più moschee in una città nel nord-est del paese. E adesso di nuovo in Italia, si parla di auto, il rapporto ANIA, senza assicurazione l'8,7% dei mezzi circolanti. Al sud più di una vettura su 10 potrebbero essere gli effetti della crisi. Comunque i prezzi medi sono in calo dopo la stretta sulle denunce da colpi di frusta. Questo rapporto presentato questa mattina a Roma emerge che a fine 2014 il risparmio è stato in media, visto che c'è stato questo calo delle assicurazioni, in media di 40 euro rispetto al 2013, con un costo medio di 475 euro. E poi la gaffe di Google: per un problema di software, persone di colore sono state scambiate per gorilla. Sono arrivate le scuse da Mountain View, poi ne parleremo e capiremo come sia stato possibile un errore di questo tipo. In chiusura lo sport, il tennis con il campione spagnolo Nadal, che è stato battuto a Wimbledon da Brown, che è il numero 102 del mondo, quindi fuori Nadal da Wimbledon. E poi Roma 2024, le Olimpiadi, il Consiglio Nazionale del CONI ha deliberato all'unanimità 64 voti su 64 di designare Roma città italiana candidata a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi nel 2024 all'inizio della riunione in corso all'Expo. È avvenuta questa cosa, questo accordo. E poi il calciomercato con il Milan a caccia di attaccanti, che trova le punte: ufficiale colombiano Bacca e Luis Adriano firma, è notizia di poco fa, sino al 2020. Tra pochissimo parleremo anche di mondiali femminili, perché ieri abbiamo detto con gli Stati Uniti che erano in finale praticamente. Ne parliamo tra pochissimo con Martina Angelini, commentatrice di Eurosport, esperta di calcio femminile. Abbiamo seguito in questi giorni appunto i mondiali femminili che si stanno giocando in Canada dal 5 giugno. La finale dovrebbe esserci il 5 luglio, ma ce lo confermerà tra pochissimo se la raggiungiamo. Intanto torniamo sulle candidature di Roma alle Olimpiadi 2024. Dopo il via libera dell'Assemblea Capitolina e della Giunta del CONI, il Consiglio Nazionale del CONI, riunito all'Expo, ha deliberato all'unanimità di designare Roma città italiana candidata a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024. Grande soddisfazione, ovviamente, da parte del presidente del comitato promotore, Luca Di Montezemolo. Se lavoriamo tutti insieme, se lavoriamo con quei criteri di trasparenza, di creatività, se mettiamo appunto insieme una grande festa dello sport con la bellezza, con la cultura che solo noi possiamo mettere, con la tecnologia, pensiamo al 24, e con la sostenibilità, credo che abbiamo delle grandi possibilità. Roma sta cambiando, ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Non vogliamo che vengano ripetuti errori come quelli dei mondiali 90, non vogliamo che rimangano come è accaduto nel 2009 per il nuoto delle incompiute, anzi vogliamo ricucire quelle aree della città che hanno subito per errori del passato delle ferite. Il presidente del CONI Malagò non si sbilancia sulle possibilità di riuscita della capitale. Siamo in 5 con il 20% di possibilità a testa. Candidate in lizza sono al momento Parigi, Boston, Amburgo e Budapest. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Expo Milano. Ritorniamo adesso sui mondiali femminili in Canada. Ormai siamo proprio alla finale praticamente, perché ci aveva raccontato Martina Angelini di Eurosport, esperta di calcio femminile, commentatrice, che gli Stati Uniti avevano battuto la Germania. Eravamo in attesa la notte che è appena passata di sapere come sarebbe andata Giappone-Inghilterra, ed è andata molto male per l'Inghilterra. Martina? Sì, è andata male perché ha vinto il Giappone, non solo ha vinto il Giappone, ma ha vinto grazie ad un autorete al 92. Appunto, è stata una cosa terribile. Esatto. Proprio all'ultimo minuto una giocatrice, Bassett si chiama? Sì. Allora Bassett ha fatto, poverina, ovviamente ha tentato un intervento disperato su un contropiede del Giappone, pallone che è entrato nella sua porta. Tra l'altro, in una partita che l'Inghilterra aveva anche giocato abbastanza bene, un po' a sorpresa, aveva anche meritato di vincere nel secondo tempo, però alla fine le compagne non l'hanno picchiata, non l'hanno linciata, anzi, poverina, era disperata a consolarla mentre piangeva, ad abbracciarla. Comunque l'Inghilterra, che non era arrivata a questo mondiale con grandi obiettivi, giocherà ancora sabato la finale per il terzo e quarto posto. Quindi si può ritenere soddisfatta. Sì, dice. Sicuramente sì. Mm. Non come la Germania, che giocherà la stessa finale, che puntava alla vittoria. Quindi domenica finalissima Stati Uniti-Giappone, che è la rivincita del mondiale di 4 anni fa e anche della finale olimpica di Londra. Vinsero al mondiale le giapponesi l'anno dopo gli Stati Uniti, quindi questa è... Quindi come avevi previsto tu, Stati Uniti-Giappone. Che fortuna! Che se avevi magari anche scommesso su... No, niente. Se, e si gioca questa il 5 luglio. Domenica. Sì, sabato alle 22 c'è appunto finale del terzo e quarto posto e domenica a Vancouver, Stati Uniti-Giappone a luna di notte. Potete tifare tranquillamente, io ho una mezza idea, una mezza preferenza, tu ce l'hai, la puoi anche esprimere Martina o non ti non senti? Posso. Non puoi, niente, allora riserbo totale, va bene. Spero che sia, ora sembra scontato, spero che sia una bella partita perché in genere le finali dei tornei femminili sono spettacolari, a differenza di quelli maschili che a volte sono partite un po' bloccate, negli ultimi anni abbiamo visto nel femminile delle bellissime finali. A che ora lo giocano? A luna, noi inizieremo su Eurosport un po' prima, credo verso mezzanotte e un quarto, perché faremo un po' tutta la storia, ripercorreremo il cammino di queste squadre. Quindi... su Eurosport. Grazie Martina Angelini, poi ci risentiamo, vinca la migliore naturalmente. Adesso, prima di lasciarci, mi ero dimenticata di lanciarvi l'argomento di questa sera, ma sapete che potete sempre commentare le notizie del giorno attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte oppure i messaggi al 349-238-6666. Vi lancerei questa denuncia del sottosegretario Scalfarotto, che sentiremo più tardi, che per protestare contro il blocco del disegno di legge in Parlamento sull'Unione Civili sta facendo lo sciopero della fame. Ha detto: a nessuno sembra importare questa vergogna che relega l'Italia nella mappa mondiale di diritti insieme ai paesi del patto di Varsavia. A voi importa questa battaglia sulle unioni civili? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, c'è subito Andrea da Bologna che scrive un commento sulla vicenda di De Luca, di cui parleremo tra pochissimo. De Luca sembra Tony Servillo in un film di Sorrentino, con la partecipazione speciale di Matteo Renzi nella parte dell'ispettore Cluso e Berlusconi che interpreta Dreyfus, insomma diciamo un cinefilo. Adesso invece tra poco parleremo brevemente della crisi greca, in più in realtà della realtà, ecco, scusate il bisticcio di parole, che sta vivendo Atene. Vedevo prima che ci sono delle manifestazioni, ci collegheremo direttamente con la città. Ma intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, le notizie principali della giornata. La Grecia sempre in primissimo piano e il referendum che si attende per domenica. Il ministro Varoufakis, ministro dell'economia, intanto dice: con il sì mi dimetto. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo rapporto dice che servono 50 miliardi per salvare Atene fino al 2018. E poi c'è un accordo raggiunto con le regioni italiane su Italia e la sanità, lo dice la ministra Lorenzin, un accordo su 2,35 miliardi senza stravolgimenti. Effetto crisi, in 4 milioni in Italia guidano senza assicurazione. E poi il bianco italiano, il settore è salvo, firmato l'accordo per Whirlpool. La marea nera della British Petroleum, causata British Petroleum nel 2010 nel Golfo del Messico, hanno raggiunto un accordo record a 18,7 miliardi e hanno messo così la parola fine su una delle più grandi catastrofe ambientali. Mi rendo conto che di crisi greca ne avrete davvero a sufficienza, ne parliamo ormai tutti i giorni, in tutti gli spazi da tanti mesi, però per traspiragli, chiusure, tira e molla, vi aggiorno giusto sulle ultimissime cose. Avete sentito prima Tsipras che non intendono uscire dall'Europa, che il referendum non significa questo, mettersi in contrasto. Intanto il ministro Varoufakis, avete sentito, ministro dell'economia, dice che è pronto a lasciare se domenica vincono i sì, cioè coloro che vogliono accogliere la proposta dei creditori. È chiaro che per Varoufakis e per Tsipras c'è poco altro da fare, insomma, se vincessero i sì, però insomma vedranno loro. Intanto il Fondo Monetario Internazionale parla di un ipotetico nuovo piano che salverebbe la Grecia dal fallimento e per il quale ci vorrebbero 50 miliardi di euro fino al 2018. Intanto però parliamo del paese reale con la nostra Valeria De Rosa che è lì a Atene. Ciao Valeria. Buonasera Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Quindi paese, qui arriva notizia che il paese è paralizzato, che ci sono manifestazioni ad Atene, intanto comincia questo balletto dei sondaggi naturalmente. Sì, tra l'altro sondaggi che poi sono stati smentiti nel corso della giornata. Devo dirti che le manifestazioni ci saranno domani. Prima era stata annunciata la manifestazione a favore del sì, poco dopo è arrivata anche la notizia di una contemporanea manifestazione del no, quindi in due parti diverse della città domani sera alle 19:30 si daranno appuntamento ai sostenitori del sì e ai sostenitori del no. Ti devo dire che Atene è e resta una città molto viva anche in questo momento di estrema difficoltà, perché nessuno lo nasconde, anche questa sera a cena il proprietario del ristorante dove mi trovavo mi ha confermato la difficoltà proprio del vivere questo momento, proprio perché Atene è una città più medio orientale che europea, però sicuramente è una città ferita da queste file ai bancomat che ci sono, anche se non sono drammatiche, ferita dai negozi che sono sì pieni di merce e quindi non c'è nessun dramma rifornimenti, ma sono vuoti dai greci, perché anche se qui sono iniziati i presaldi, i greci non entrano nei negozi, ed è ferita da tutte queste persone che sono finite a dormire in strada, a cui si aggiungono i profughi, perché qui c'è un'emergenza migranti che è pressante tanto quanto per noi italiani. La città, come ti dicevo, è divisa tra sì e no. In città sono molto più visibili no, perché essendo comitati che hanno meno disponibilità economiche cercano di farsi notare in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo pomeriggio, mentre ero in camera, sotto le finestre dell'albergo è sfilata una piccola processione di moto che possiamo sentire. Si trattava di poco più di una decina di moto con bandiere rosse, gridavano no, no, squarciagola, e queste sono le modalità con cui cercano di pubblicizzare il proprio voto. Oltre ad aver affisso in città dei cartelli con la faccia di Schäuble, del ministro delle finanze tedesco, e sotto la scritta proprio a caratteri cubitali no. Davanti all'Università di Atene ho incontrato invece i più radicali, forse più gli oltranzisti del no, che sono un movimento internazionale che raccoglie comunisti di vari paesi che avversano ogni minima sfumatura del capitalismo e invocano la nazionalizzazione delle banche. Io in particolare ho incontrato Yannis, possiamo sentirne un frammento. We are from OCDE. OCDE belongs to the Fourth International, to the Trotskyist movement. We are fighting. Ecco, io l'ho definito il trotskista, ma ci sono andata poco lontana perché lui si sentiva che parlava di trotskismo, sì. Esatto, e loro proprio chiedono la nazionalizzazione delle banche, tutto a favore ovviamente delle misure per la popolazione, quindi un no netto all'Europa, un no netto alla moneta unica, un ritorno alla dracma, cosa che da parte degli studenti almeno non è contemplata, anche se anche loro sono sulla posizione del no, perché questa Europa, dicono, non è l'Europa che noi abbiamo scelto, perché questa è un'Europa che ci fa vivere in povertà. Il fronte del sì, Roberta, avendo più soldi a disposizione, perché i comitati del sì sono più danarosi, stanno invece martellando sui social network, quindi campagne a tappeto su Twitter, messaggi, e stanno cercando di fare pressione anche sui media. A questo proposito devo dirti che oggi sono successe un paio di cose particolari, quella dei sondaggi ad esempio. A un certo punto Katy Merini online ha pubblicato questo sondaggio che dava il sì in vantaggio. Poco dopo la società che secondo Cati Marini aveva fatto questo sondaggio, la GPO lo ha smentito totalmente, ha detto questo è un sondaggio che noi non abbiamo mai fatto. In più, sempre su Cati Marini, oggi campeggiava un bell'articolo che parlava del danno incommensurabile che aveva ricevuto il turismo dall'annuncio del referendum. Io sfido chiunque a cercare posto in questi giorni ad Atene o nelle isole greche e a trovare una stanza, perché non è possibile da nessuna parte. La città è piena ed è visibile, è piena di turisti ed è piena anche di noi giornalisti che siamo venuti a seguire il referendum di domenica. Grazie Valeria De Rosa. Adesso tanto aggiornamenti ce ne saranno anche domani, anche se vogliamo evitare qualche volta di parlare sempre di Grecia, ma ovviamente il momento cruciale è quello del referendum di domenica e lì si vedrà. Grazie Valeria, buon divertimento intanto. Grazie. Ciao Valeria. Quindi di Grecia si capisce sempre meno, diciamo, e bisogna vedere se si capisce qualcosa di più invece su questa benedetta legge Severino, che adesso riguarda anche riguarda da un po' la vicenda di Vincenzo De Luca, presidente, neopresidente della regione Campania. Il Tribunale di Napoli, lo stesso che ha levato la sospensione da sindaco di Napoli a De Magistris, ha accolto anche il ricorso del governatore De Luca contro la sospensione per effetto della legge Severino. Per il giudice dice l'intervento non può tradursi in un'abnorme revoca delle elezioni, ha detto De Luca, quindi può governare la regione, e lui commenta dicendo così. La sentenza del Tribunale di Napoli ci mette in condizione di cominciare pienamente il nostro lavoro amministrativo. È un atto che consente agli elettori di vedere rispettato il proprio diritto di scegliere da chi essere governati. E poi c'è stato il capo dell'autorità anticorruzione Cantone oggi, che è tornato sulla legge Severino. Sentiamo come ha commentato. La Severino è una legge, un insieme di leggi assolutamente utile e giusta. È giusto secondo me evidenziare una serie di criticità ed è giusto affrontarle con i tempi che il Parlamento riterrà, perché io credo che quella è una legge utilissima per il contrasto della corruzione, però ci sono degli emendamenti da fare, lo possiamo dire adesso che diciamo il caso De Luca non c'entra nulla. C'è da aggiungere la reazione del centrodestra, che possiamo diciamo concentrare in quello che ha detto Brunetta di Forza Italia. Il caos Campania continua naturalmente perché la situazione non è finita, ma soprattutto è morta la Severino, perché è possibile che sia solo Berlusconi a pagare e tutti gli altri, soprattutto del Partito Democratico, a essere salvati? La Severino è contra personam, contra Berlusconi. Mi pare che Cantone dica anche che la Severino è da cambiare. Allora, rottamiamo la Severino, facciamo tornare Berlusconi senatore e poi ne riparliamo. Insomma, avete sentito. A che punto siamo? Lo chiedo a Michele Ainis, costituzionalista, docente di diritto pubblico all'Università Roma 3, editorialista del Corriere della Sera. Michele, aiutaci tu a capire come stanno le cose, perché adesso deve arrivare una sentenza invece della Consulta a metà ottobre, che deve decidere nel merito quali sono i confini di questa legge Severino. Tu li capiti? No, io veramente speravo che mi spiegassi tu, perché non... Troppo buono. Non rimpalliamoci le responsabilità qui, eh. Vabbè, che sia un pasticcio sotto gli occhi di tutti, passo perché c'è una normativa che ti consente di candidarti alle elezioni, quindi anche di vincere le elezioni, ma non ti consente poi di governare. Questo determina un effetto paradossale, determina il sequestro del voto di cui parlava De Luca, perché se l'alternativa fosse votare ogni tre giorni e magari ogni tre giorni di vince De Luca, poi viene sospeso e poi si rivota, ecco, finiremmo non lo so dove, in un manicomio. Però va detto intanto che il caso Berlusconi è diverso dal caso De Luca, perché Berlusconi aveva subito una sentenza definitiva di condanna. Quella sentenza definitiva di condanna significa un accertamento, poi per carità la certezza non è di questo mondo, però quel poco di certezza che abbiamo è la certezza giudiziaria, l'accertamento di un reato, cos'era, frode fiscale, non ricordo più, commesso da Berlusconi. Sì. Quindi questo ha inciso sui requisiti di dignità morale che la Costituzione reclama per l'ufficio di parlamentare. È più critica la situazione. situazione che riguarda De Luca o De Magistris o gli amministratori locali, qui viene in campo un altro principio costituzionale, che è la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna. Questi signori hanno subito una sentenza in primo grado, non una sentenza definitiva. Se sulla, perché la legge questo dice, sulla base di una sentenza di primo grado per certi reati, io ti sfilo la poltrona e ti sospendo per 18 mesi, creo un danno irreversibile, perché poi il mandato consigliare o della giunta dura al massimo per 5 anni, ti tolgo un anno e mezzo, e magari per scoprire alla fine della giostra che invece c'è una sentenza che ti assolve. Quindi io credo intanto che andrebbe riallineato il sistema, parificando le situazioni dei parlamentari e dei sindaci o dei presidenti delle regioni. Come parificare? Forse una via di mezzo potrebbe essere quella di pretendere, prima che scatti la decadenza, ma per tutti, che ci sia una doppia conforme, cioè che ci sia una sentenza di condanna di primo grado e anche di secondo grado. Non avremmo così la sentenza definitiva, perché quella poi è la Cassazione in genere che la pronuncia, però avremmo insomma due diversi tribunali che hanno visto nello stesso modo i fatti. La asimmetria, appunto, che riguarda parlamentari e amministratori locali è uno dei punti critici della legge, della normativa. E quindi, come diceva Cantone, qualcosa è da rivedere, insomma, per forza. Questa legge si vede che è nata male, direi, poco chiara. Sì, direi di sì, ma anche perché nel frattempo assistiamo a questo, a questa fiera così nell'assurdo, no? Perché c'è un decreto di sospensione, la sospensione viene sospesa da un giudice, ma la sospensione della sospensione potrà essere revocata, perché il 17 luglio poi verrà presa la decisione definitiva, questa era solo in via di urgenza. Credo che chi debba avere poi alla fine l'ultima parola è la Corte Costituzionale, che deciderà in ottobre, magari poteva anche far prima. Ecco, vediamo se almeno allora ci sarà un pochino più di chiarezza. Grazie intanto, Michele Ainis. Ciao, buona serata. Buona serata. Adesso ci lasciamo, pausa di ricreazione, siamo anche un pochino in ritardo, vedevo i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito del digiuno di cui parliamo, di Scalfarotto per le unioni civili, c'è Roberto che dice: se fosse più coerente si dimetterebbe, come se io cantassi in un coro smettessi di cantare perché non condivido i brani scelti all'unanimità dal coro. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, come sapete, Roberto Giordano con voi sino alle 22, come sempre, tutte le sere. Effetto Notte, vedo i vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina di Effetto Notte, pagina Facebook, dove potete continuare a scrivere. Però intanto vi ricordo quali sono le notizie principali del giorno. Sapete che qualcuno magari accende un po' più tardi o magari spegne e poi riaccende, cercate di seguire tutto quanto Effetto Notte. Vi ricordo quindi le notizie se le avete perse poco fa e poi andiamo su un altro dei temi di questa sera. Crisi greca, il ministro greco Varoufakis annuncia con il sì al referendum mi dimetto e secondo il Fondo Monetario Internazionale serviranno 50 miliardi per un nuovo piano di aiuti per Atene sino al 2018 e intanto per l'Italia, se vincessero i no, ci sarebbe un conto da 11 miliardi. Il caso De Luca, il Tribunale di Napoli congela la sospensione, il Presidente di Regione può governare la Campania, l'ira di Forza Italia che commenta la legge Severino vale solo contro Berlusconi. Whirlpool, è stato firmato l'accordo, salvi tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale. La marea nera, British Petroleum paga gli stati americani del Golfo, accordo record da 18,7 miliardi per mettere la parola fine su una delle più grandi catastrofi ambientali. La spesa sanitaria, intesa raggiunta con le regioni sui tagli alla sanità, la ministra Lorenzin commenta un accordo su 2,35 miliardi senza stravolgimenti. La gaffe di Google per un problema di software, persone di colore scambiate per gorilla, scuse da Mountain View. E per il calcio, nei mondiali femminili in Canada, la finale sarà il 5 luglio tra Stati Uniti e Giappone. Il tema adesso sono le unioni civili, tema che è di particolare attualità in queste ultime settimane, dopo il referendum sui matrimoni gay che c'è stato in Irlanda e hanno vinto i sì, e poi di pochi giorni fa la sentenza della Corte Suprema americana che ha detto che i matrimoni anche tra persone dello stesso sesso sono un diritto umano e quindi devono essere possibili in tutti i 50 stati americani. Per quanto riguarda l'Italia, il Presidente del Consiglio Renzi già da tempo aveva fatto sapere che era nel suo programma di governo questo delle unioni civili alla tedesca, e di recente è stato anche più volte assicurato da parte di esponenti del PD che il disegno di legge forse sarebbe arrivato in porto addirittura entro l'estate. Ma il problema qual è? Che la legge, in realtà il disegno di legge, è bloccato in Parlamento da una sequela di emendamenti, ma la cosa un po' curiosa è che sono emendamenti provenienti anche dalla maggioranza di governo stessa. A questo punto cosa è successo? Che il sottosegretario per i rapporti col Parlamento Ivan Scalfarotto ha deciso di fare una cosa un po' inusitata, diciamo così. Lui, che è membro del governo essendo sottosegretario ai rapporti col Parlamento, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua stessa maggioranza. È vero, onorevole Scalfarotto? Buonasera. Buonasera a voi. No, non è propriamente così. No, in realtà io protesto non contro la maggioranza e forse neanche tecnicamente protesto. Io quello che vorrei è che si aprisse un dibattito su questo tema un pochino più ampio di quello che c'è stato finora. Lei diceva giustamente che il tema dei diritti delle persone omosessuali nel mondo è un tema centrale nell'agenda politica di tutti i paesi. E questo purtroppo succede un pochino meno in Italia, dove c'è qualcuno che è particolarmente contrario ed è molto visibile, si dà giustamente molto da fare. C'è chi è privato di questi diritti e quindi manifesta per poterli avere, ma c'è tutto un grande pezzo del paese che, al contrario di quello che per esempio è successo in Irlanda, dove durante il referendum c'è stato un grande coinvolgimento della popolazione, perché tutti si sono resi conto che non era tanto una questione legata ai diritti dei gay, ma era un dibattito sulla natura stessa della democrazia irlandese, sulla società, sul progresso, sull'apertura, sull'inclusione, sul rispetto. Cioè un tema che riguardava non soltanto chi di quei diritti è privo, ma a tutto il paese intero. Invece in Italia non è così. La sensazione è che questo sia un tema di nicchia, un tema che riguarda poche persone, quelli appunto che sono ferocemente contrari o quelli che, essendone privi di quei diritti, protestano per averli. Però non si riesce a fare un salto di qualità e non si riesce a far capire, diciamo, alle persone che magari sono anche genericamente favorevoli, però non particolarmente desiderose di esporsi, che si tratta invece di una questione molto più ampia, tant'è che appunto la Corte Suprema degli Stati Uniti se ne occupa, l'Irlanda se ne è occupata, il presidente Hollande ha messo questo punto nel suo programma quando è stato eletto, il primo ministro Cameron ha fatto la stessa cosa. Cioè un tema che è di grande attualità dappertutto, in Italia sembra non schiodarsi. Allora, il mio soffro della fame, per così dire, serve soprattutto a, perché ci ride? Non sta scioperando veramente fino in fondo? No, sto scioperando, però non mi piace molto il termine sciopero, diciamo così. Come lo possiamo chiamare? Astensione dal cibo? Sì, ma va bene, anche sciopero della fame, figuriamoci. No, il tema è che io non starei parlando con lei probabilmente se non avessi preso questo passo. E poiché però va detto che l'Italia in questa situazione, proprio forse anche per la marginalità di questo dibattito, sta in quello che io chiamo il patto di Varsavia dei diritti. Cioè noi siamo, se lei guardasse una cartina geografica che riguarda i diritti civili, noi siamo insieme alla Bielorussia, alla Moldova, alla Russia stessa, e non siamo accanto alla Francia, alla Spagna, alla Gran Bretagna, ma le dico di più, anche alla Slovenia, alla Croazia, a Malta, tutti paesi che hanno introdotto delle forme di legislazione, mentre invece l'Italia non lo fa e ha una posizione, secondo me, inadeguata. Essendo la culla del diritto, la patria di Beccaria, un paese fondatore dell'Unione Europea, si trova in una situazione nella quale un pezzo della popolazione non ha nessun diritto e a nessuno sembra interessare granché. Scalfarotto, allora, per questo suo sciopero della fame, lei ha avuto la solidarietà, vedevo, di vari colleghi di partito che anzi quindi sollecitano un'accelerazione sulle unioni civili. Poi ci sono stati colleghi come Burtone, deputato del PD, che dice che ha detto una cosa di questo tipo, che vedevo dalle agenzie: caro Ivan, recedi da questa iniziativa dello sciopero della fame, non è la strada giusta per sollecitare la normativa sulle unioni civili. Sei un esponente istituzionale, un rappresentante del governo e certe iniziative, seppur in buona fede, a mio avviso non aiutano il raggiungimento della causa. E fa l'esempio dei precari, di altri, perché dice ci sono forse cose più importanti o per le quali anche bisognerebbe scioperare. E poi naturalmente c'è anche parte dell'opposizione che la critica duramente, come Elvira Savino di Forza Italia, che dice: un sottosegretario che fa lo sciopero della fame contro la propria maggioranza di governo è davvero incredibile, la sua azione dimostrativa sarebbe credibile solo se si dimettesse da sottosegretario. E per finire sentiamo anche Salvini cosa ha detto oggi in Calabria. Allora, lei dice che Matteo Renzi però ha un'agenda confusa. Ebbene, ditemi voi se per un italiano qualunque l'emergenza adesso sono i matrimoni gay. Trovatemene uno, anche gay, che dice che l'emergenza è il lavoro e l'immigrazione piuttosto che il matrimonio. Che cosa risponde Scalfarotto? Ma che Salvini evidentemente aspira a governare per fare le cose una alla volta. Salvini non sa che, ahimè, per governare un paese bisogna fare molte cose alla volta. E Salvini dimentica, come dicevo prima, che appunto la Corte Suprema degli Stati Uniti non aveva niente di più urgente da fare, l'Irlanda non aveva nulla di più urgente da fare. Vuol dire che questa è un'urgenza, insieme naturalmente ad altre urgenze, però c'è anche questa urgenza. Allora, se noi facciamo sempre i benaltristi, no? C'è sempre qualcosa di ben altro di cui occuparsi, alla fine non caviamo un ragno dal buco. Però mi faccio dire una cosa. Sì. Io voglio sottolineare che diciamo, io apprezzo moltissimo sia l'impegno del Partito Democratico che del Presidente Renzi su questo, diciamo, su questo fronte. Renzi è stato probabilmente il primo Presidente del Consiglio del nostro paese, anche tra quelli di sinistra, che abbia preso una posizione molto netta, pubblica, anche in questo modo contribuendo al dibattito pubblico. E il Partito Democratico, che in anni precedenti era stato molto diviso sui cosiddetti temi etici, che è una etichetta che non mi piace, ma insomma, il Partito Democratico che su questi temi si era molto diviso, oggi è molto compatto. Le divisioni sono su se l'adozione o l'affido debba essere appunto quello strumento tecnico. Per cui io, come dire, non, ripeto, non protesto né contro il governo né contro il partito. Io penso soltanto che in questo momento ci sia bisogno di attrarre l'attenzione su una questione che appunto è facile diciamo definire, come fa Salvini, una questione di secondaria importanza, e invece di secondaria importanza non è, perché noi ci troviamo in una situazione nella quale nel nostro paese si ha una violazione dei diritti umani e nessuno se ne occupa. Scalfarotto, allora, abbiamo veramente 20 secondi, poi la devo purtroppo lasciare. Lei sa che se aspetta che acceleri la legge rischia di morire di fame? Lo sapere se è consapevole di questa cosa. Chi comincia lo sciopero della fame lo metto in conto. Però io, guardi, le dico, il mio obiettivo è quello di avere un impegno formale da parte della politica, neanche dal Parlamento, diciamo, io sono... I regolamenti parlamentari, i calendari parlamentari sono una cosa che rispetto moltissimo e non vorrei mai intromettermi, però vorrei una risposta politica, cioè quando la nostra classe dirigente, complessivamente intesa, deciderà che non è più ammissibile appunto che l'Italia sia considerata al 39esimo posto su 49 paesi del Consiglio d'Europa per questi temi. Ecco, quando accadrà ce lo fa sapere, lei però smetta prima, eh? No, per prudenza. Per il momento continuo, poi restiamo in contatto. Va bene, volentieri. Stia bene Scalfarotto, grazie. La saluto. Grazie. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. In pochi secondi vi ricordo che c'è sempre la Grecia in primo piano in attesa del referendum di domenica, e poi è stato accolto il ricorso di Vincenzo De Luca e può governare la Campania. Europa 24. Parliamo del latte in polvere nei formaggi. Fa ancora discutere la richiesta della Commissione europea all'Italia di mettere fine al divieto di utilizzo del latte in polvere per la produzione di formaggi. Un divieto previsto da una vecchia legge italiana del 74, in nome, chiede la Commissione di evitarla questa legge, in nome della libera concorrenza all'interno dell'Unione. Protesta però la Coldiretti, mentre dalla Sardegna è partita una petizione. Non c'è nessun diktat, ha precisato però il commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan, e anche secondo Paolo De Castro, coordinatore per il gruppo dei socialisti e democratici della della Commissione Agricoltura del Parlamento, non c'è nessuna imposizione da parte dell'Europa, nessun rischio per la qualità dei nostri prodotti, a condizione però di mettere a punto un sistema di etichettatura. Alessandra Schepisi ha ricostruito con lui i termini della vicenda a partire dal divieto previsto dalla legge italiana. Una legge vecchia di 40 anni che era stata fatta in Italia perché c'era la frode del polvere di latte per uso zootecnico che poteva essere utilizzata per alimentare, da ciò la legge che vieta qualunque tipo di formaggio di prodotti lattiero-caseari con latte in polvere o latte congelato. Naturalmente il sistema produttivo italiano in questi 40 anni si è adeguato a questa norma e a questo divieto, per cui oggi in Italia in realtà nessuno vuole abbandonare questa norma e noi ci sentiamo impegnati come parlamentari europei a difendere quanto possibile questa specificità italiana. Però dobbiamo chiarire che non è a rischio la qualità e non c'è nessun diktat europeo. La qualità innanzitutto garantendo i prodotti doppi GP non possono né prima né dopo eventuale abrogazione di questa legge utilizzare latte in polvere. E va bene, quindi i prodotti di origine DOP e GP verranno tutelati. Tenga conto che DOP e GP nel caso dei formaggi significa circa il 60% dell'intera produzione di latte nazionale, e poi unisce anche la produzione di latte alta qualità, che è un altro circa 15%, e capisce che oltre il 70% della produzione nazionale non è interessata a questa legge. Come tutelare quest'altro 30%? Esatto, allora? Su quel 30% noi dobbiamo innanzitutto cercare di difendere questa norma, lo voglio precisare, quindi lavoriamo per difendere questa specificità italiana. Qualora poi non ci si dovesse riuscire, le possibilità sono due, ce lo indica anche la stessa Commissione nella lettera inviata, e cioè sistemi di etichettatura per rendere chiaro e trasparente al consumatore se il formaggio comune, diciamo, o il latticino, yogurt, eccetera, è stato fatto con latte in polvere, può essere indicato in etichetta fatto con latte in polvere, fatto con latte fresco. Secondo elemento, sistemi di qualità certificati. Ci si sta già lavorando al Ministero dell'Agricoltura, che assomigliano al sistema, per esempio, la Label Rouge francese. Sono dei disciplinari che individuano, diciamo, determinate procedure che non sono prodotti GP, ma non sono neanche prodotti comuni. Ecco, questi sono altri sistemi che potrebbero garantire il consumatore da una caratterizzazione, da una distintività che la produzione italiana certamente ha rispetto al resto dell'Europa. Ecco, quindi in realtà non c'è un vero, qualcuno ha scritto un braccio di ferro con l'Europa, poi in realtà bisogna pure ricordare che questa questione è nata dall'iniziativa di un europarlamentare leghista e poi dalla denuncia anche è nata da un'iniziativa di un europarlamentare leghista, ma se vogliamo ricostruire storicamente, vent'anni fa circa, 15-20 anni fa, c'erano ancora degli stabilimenti in Italia che producevano yogurt con latte fresco che si lamentavano del differenziale di produzione rispetto a altri paesi europei che, come noto, tutta Europa li produce con latte in polvere. In ogni caso, ripeto, noi lavoreremo per difendere questa specificità italiana, visto che il sistema produttivo oramai si è costruito intorno a questa caratterizzazione. Dopodiché però prepariamoci anche per il futuro per avere sistemi di certificazione alternativi come il Label Rouge che citavo, oppure sistemi di etichettatura altrettanto chiari, perché dobbiamo difendere anche quel 25-30% di produzione di latte italiano che va a formaggi comuni non certificati e nel latte alta qualità. E c'è comunque da parte della Commissione europea, secondo lei, anche una disponibilità? Mi pare proprio di sì, perché il commissario Hogan, intervistato su questo dalla Commissione riunite di Camera e Senato proprio ieri, ci ha dimostrato assolutamente disponibile a venire incontro alle autorità italiane a cercare di costruire un percorso. E d'altra parte dire che questa legge impone la produzione di formaggi al latte in polvere, questo non è vero, anche perché questo vorrebbe dire che tutta la produzione francese, belga, tedesca sarebbero tutte lì fatte con latte in polvere. Cioè, questo mi sembrerebbe un po' una semplificazione eccessiva. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. E ora compito al nostro Enrico Paglierini di spiegarci questo imbarazzante errore, il nuovo sistema di catalogazione di Google, il riconoscimento insomma dei volti umani. Enrico. Allora, è molto semplice, esiste un'applicazione che si chiama Google Photo che ti permette di tra le tante cose che fa questa applicazione, ti permette di archiviare le fotografie che tu fai con lo smartphone. Esiste sia per Android che per iOS. Allora, che cosa fa tra le tante cose che fa questa applicazione? Archivia le foto in base ad alcune caratteristiche che vengono assegnate da un algoritmo di intelligenza artificiale. Se tu fai molte fotografie di spiagge, cioè di vari soggetti, ad esempio in spiaggia, questo sistema riesce a riconoscere le spiagge e quindi le archivia secondo questa parola chiave. Ecco, è successo che purtroppo questo algoritmo è impazzito e ha scambiato delle persone di colore per gorilla, e quindi diciamo che l'intelligenza artificiale in questo caso non è stata poco molto intelligente. Questo è un po' il problema. Siamo agli inizi di questa grande era dell'intelligenza artificiale, ogni tanto qualche cosa scappa e non funziona per il verso giusto. Meno male, ci sentiamo confortati per certi versi, no? Visto che le macchine dovrebbero essere più intelligenti di noi. Grazie Enrico Pagliarini. Grazie a voi, buona serata. Ciao Enrico, noi ci lasciamo brevemente e ci risentiamo alle 22.